Sebastiano, sede a Bologna, una solo di informazioni, il nostro pantelizio, baby, radio, ascoltarla liberamente. Baby, radio, una radio libera, baby, radio, una radio di Bologna, di Sebastiano, sede a Bologna. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Baby Radio. Questa sera una puntata un po' particolare, è la quinta puntata, non riusciamo a trasmettere dalle frequenze free di via Sebastiano Serlio perché ci hanno rovinato la sede, i fascisti ce l'hanno bruciata, quindi trasmettiamo un po' appartati da una cabina di via Albioni, qua della SIP. Questa sera riceveremo telefonate e vogliamo iniziare questo palinsesto proprio con la prima telefonata di un nostro ascoltatore, un compagno del sud. Quindi se mi aprite le linee posso prendere la telefonata. Sei pronto? Pronto, parlo con Salvatore. DJ Paticcio sei tu, vero? DJ Paticcio. Sì, ciao Salvatore. Da dove ci chiami? Dove chiami Salvatore? Paticcio. Dimmi. Patrizio, ciao Patrizio, ciao. Salvatore, da dove chiami? Ciao, ciao. Io sono a io ti chiamo Palermo, io ti chiamo. Io sono stato con Piero a Palermo 10 anni fa. Beh, ci sono delle situazioni belle lì, ci sono delle galere libere, lì si sta bene, vero Salvatore? Sì, è molto bello qua, ci sono tanti bravi amici, tante belle cose come tu sai. Sì. Queste cose diciamo nostre, insomma ci sono le cose buone, mi hai capito tu a me, Patrizio? Non mi dire così, mi metti in imbarazzo adesso, ma se vuoi ci possiamo trovare, io la prendo la dedra per venire, la lancia dedra per venire giù, un passaggio lo do anche ad Antonio. Vieni qua, io ho per ora ho arresti domiciliari, io per ora qua sono a casa, quindi tu puoi venirmi a trovare quando vuoi, vieni qua, siamo con gli amici, stiamo bene, c'è mio cugino che conosce a quello alle cosse cavalli, e poi sta la vietamino, insomma tranquillo, tu vieni a trovare quando vuoi, Patrizio, ecco, tutto a posto qua. Oh, mi raccomando Salvatore, ma lo sai che non so se sicuramente mi ascolterai, io sono molto affezionato ai barili d'olio, all'olio. Sì, non ti preoccupare. Ne avete dei barili lì? Qua tutte cose ci abbiamo. Salvatore. Oh, tutto a posto, e ora qua sono l'amico mio. Ma cosa state facendo? Cosa fai lì? Niente, è venuto qua l'amico mio Giuseppe, ha portato una bella busta, insomma, qua è una bella situazione. Meno male che ci senti come te ancora, perché qua io ci provo per radio con i ragazzi, ma non ascoltano, meno male che non lavori, cosa fai? Dimmi Salvatore, lavori? Lavori lì a Palermo? Non so lavorare, io per ora sono a casa, perché te l'ho detto, siamo andati praticamente, siamo andati d'estate con l'amico mio, perché abbiamo stati alle poste. Sì. Siamo entrati alle poste con mio cugino, capito? E niente, siamo entrati. Perché insomma così, hanno chiamato gli sbirri, capito? E ci ho però il domiciliare, purtroppo non posso uscire. Ma cosa pensi di... Tony! Ma sentiamo che la casa, perché non si è fatto, sogno il telefono! Salvatore! Salvatore, ci dobbiamo trovare, devi venirci a trovare. Sì, sì, e ora io per ora mi posso muovere, perché insomma tu sai, qua per ora non sono diciamo ospite dello Stato, e quindi niente, per ora qua ci stiamo ascoltando l'ultimo CD di Gianni Celeste. Insomma, non fare, siamo qua, molto buono. Lo so, è duro, Salvatore, devi tenere stretto, sono momenti duri. Io ti capisco. Le ho passate anch'io, però io penso che andare contro il sistema sia l'unica soluzione. E ti posso chiedere perché hai... Scusa, Salvatore. Questa roba che mi sta rovinando. Salvatore, perché hai chiamato? Cos'è che mi... Perché mi piace piace molto a me, Baby Radio mi piace molto, io me l'ascoltavo sempre quando ero ai Pagliarelli con i nostri compagni, diciamo, di Celi, sempre. No, ma lo so, va molto bella, io ti volevo fare i miei tutti i complimenti, salutava pure qua Turi, Giacchino, tutti gli amici, tutto il mio cugino, tutti i complimenti noi ti volevamo fare. Perché è una cosa molto bella per il radio, è una cosa giusta, diciamo, che parla delle cose giuste e delle persone giuste, e tu capisci a me, giusto, Matteo? Tu capisci queste cose perché veramente pure tu sei stato un mese che qua. Ne abbiamo passate, Salvatore, lo so, ma anche Piero le ha passate, ecco, no, sai, è così nella strada, è così, non ci fai niente. Certo, e tu lo sai, poi non è, alla fine, anche se siamo molto distanti, diciamo, tu sei Polentone, tu sei Dandapo, io sono qua, però alla fine siamo tutti amici, diciamo, non è che quando c'è la situazione allo stadio, giusto, per dire siamo allo stadio, certo, e c'è la partita, allora ci ammazziamo tutti come i cani, certo, è giusto, è una cosa bella, però quando alla fine siamo tutti consumati, diciamo, ci troviamo tutti ospiti dello stadio, siamo tutti fratelli, siamo tutti, certo, quando noi abbiamo questi problemi, e quindi è una cosa molto bella, è una cosa che io ti volevo fare i complimenti. Ti ringrazio, Salvatore. Sto bene quando ascolto Baby Radio, cioè mi trovo poco, capito? Quello giusto, diciamo, quello giusto. No, ma perché Salvatore la gente. Oh, capito? Mi vuoi qualche busta, qualche cosa, e stiamo bene, ci divertiamo noi. E la gente lo sottovaluta che è una radio libera, non ha capito il senso. Giusto. Salvatore, ma vorresti sentire qualche brano in particolare? E tu metti la musica, metti tu, perché io so che tu c'hai bella musica, belle cose, perciò a me mi piace quando tu metti la musica a Baby Radio. E mi piace ascoltare. Salvatore, ascoltare tutte queste cose nuove, queste belle cose. Scusate. Thank you. che mi è venuto in mente, solo il pensiero mi fa stire di merda. No, adesso che siamo entrati un po' in questo aspetto confidenziale, no? Ti volevo chiedere una cosa un po' intima. Ma quanto costa una pallina lì da te? Che mi è venuto questo sbuffo di venire a prenderla. Scusa, lavatore. Patizio, dimmi. Patizio, scusami, c'è me cucino, se non ha macchina, capisci? Ci montò subwoofer nella macchina. Certo. A partire da tutto l'impianto, c'ha praticamente. O c'è di Gianni Celeste. Ma a te ti piace Gianni Celeste? Io le conosco, tutti i neomelodici, vestosi, Nicosia. Bravo, infatti pensavo di farli passare per radio, è una di queste continua a seguirci perché le metteremo. Giusto. Ascoltami Salvatore. Tu lo conosci per caso Tonino di Arci Reale? Tonino io conoscevo. Perché stava lì da te, lui è di Arci Reale. Però poi. Io conoscevo un Tonino, ho conosciuto un Tonino, E che l'hanno arrestato. Credo di sì. Ma io ti parlo di qualche mese fa, che era venuto a fare una puntata lì. Giù e credo ci fosse stato un malinteso e non ho più avuto notizie. Ma ecco, io mi scusa Salvatore, io ti parlo di Torino di Arci Reale. A pamore, da allora forse è morto Patrizio, e che per ora gira sta roba, gira per ora sta roba tagliata male. Ma ne parlavo, sai, di sta merda qua che gira anche qua a Bologna. C'è troppa cittadina, ci mettono troppa cittadina, capisci? Insomma, non è buona sta cosa. Io per fortuna c'è l'amico mio, ma questa quella buona, diciamo. Con 10 euro, io mi porto quella buona. Quindi costa una pallina 10 euro. 10 euro, poi. Madonna, che spettacolo! Non mi dire così, Salvatore, che prendo la dedra subito, il teletrasporto. Tu lo sai che. Te la porto io, Patrizio. Tu non sai, non ce n'è problemi, poi te la porto io. Poi te la porto io. Sei buona. Ti voglio, Salvatore, ti voglio bene. Ti voglio bene. Bella pulita. Bravo. Ma sai che quando arrivi. Ma tu lo aspetti. Anche tu lo stai aspettando questo nuovo pianeta, vero? Kendale. Sai che abbiamo fatto proprio l'inaugurazione di questo nuovo pianeta che arriva. L'arrivo di Kendale è l'annunciazione, lo sai, no? Forse sono cose di meteorologia, vero? Forse meteorologia e tempo, diciamo. Io non lo so, io Patrizio, tu lo sai, io ti voglio bene, però io sono ignorante, io ho la testa alimentare, ho preso io la testa alimentare, perciò io non lo so, io non so scrivere, io non è che. Scusa, ma qua dalle frequenze free lì mi arriva, hai la musica alta, io non capisco, bro. Scusa, ma mi sta salendo quando mi sale proprio che mi scende, capito? Anche quando vado live in trasmissione che mi sta scendendo, mi viene da stracciare. Scusa un attimo, un secondo, facciamo partire un pezzo e poi ci ritroviamo in linea. Vabbè, vabbè, ciao, ciao, Patrizio, ti voglio appena. Una, una cosa, ciao, Patrizio. L'ultima cosa. Ma ci credi a Padre Pio? Perché una volta Ode era andato in overdose e ha visto Padre Pio ed è stato meglio. Cioè Padre Pio, io sono devoto Padre Pio. Ma sai, dicono che sia tipo come quei maghi taumaturgi. Cioè se lo vedi, se lo vedi che sei fatto, stai meglio. Tutto a pedacina. E c'è il santuario di Padre Pio, è bello. Perché Padre Pio è bravo e fa i miracoli. Padre Pio, Padre Pio ci vuole bene a noi. Certo. E ci fa stare bene, è una cosa bella. Perché tu quando preghi a Padre Pio ti sente, ti dice sì, ma bene. So anche che il santo devoto, no? Per chi sta dentro Padre Pio è comunque riconosciuto un po' come il protettore dei compagni. Abbiamo fatto la statua, quando ci abbiamo fatto la statua, no? C'è la statua, Padre Pio. Guarda, io ti vengo a trovare, Salvatore, l'unica cosa, si mangia bene a Palermo perché io ho un po' di problemi in stomaco. Sì, anche Piero va bene, ci sono tante cose, però diciamo che io te la faccio passare la fame, capisci a me? No, sei stato chiaro. giusta, quella buona, che ti passano tutte cose, stai bene, e mangiare poi, ogni tanto sì, si mangia pure, perché ci sono, mangiare c'è, non è che, certo. Alla fine ce l'andiamo qua, da Giuseppina c'è il panificio, e ci regala i panini, no, quando ci andiamo, perché io, giustamente, non è che i soldi quando tu ce li hai, che ti raccolgono i soldi, diciamo, più ne vuoi, ti raccolgono i soldi, si compra per tutti, giusto, si comprano le buste, si compra la situazione per tutti, ci mettiamo là in comunità e stiamo bene a giro, diciamo, certo. Facciamo una cosa nostra, una cosa fra di noi. Poi quando c'è da mangiare, panificio, e c'è Giuseppina, ci regala qualche panino, ci dà qualche filone, così qualche cosa, e mangiamo, non è che non ci sono problemi. Tu non ti preoccupare, Patrizio, tu vieni qua, quando vuoi noi ti accogliamo a braccia aperte. Ma io sto... Salvatore, io stavo pensando proprio, tu come fai a prendere i soldi, perché io qua ho tutta l'argenteria della mia famiglia. Sai che no, abbiamo tenuto proprio dei comizi noi in piazza per invogliare a vendere... Per della roba buona, però, sempre. Noi parliamo solo di roba buona, vendere l'argenteria, quindi comunque pezzi di metallo, le posate, quelle che facevano parte della collezione magari familiare. Parlami della situazione, ti prego, mi interessa, perché qua hanno distrutto lo studio, io ti chiamo dalla cabina. Volevo capire la situazione dei fasci a Palermo, com'era, un attimo. Ma non so, facciamo un po' di informazione per i nostri compagni. Non lo so Patrizio, io a me mi piace la fusione, capito? Io queste cose non capisco, io queste cose, perché l'importante è quando c'è la fusione, che uno che stiamo bene tutti quanti, fai girare, capito? Ti fai una striscia, te la fai tu, una me la faccio io, se io ho una pallina noi ce la dividiamo, perché è giusto così. Poi a me interessa, a me tutte queste cose di Nazi skin, questi, quelli, io non le capisco queste cose, perché a me mi piace la fusione, mi piace questo, mi piace che sto bene, poi tutta questa gente è un altro discorso, perché tu sei... purtroppo ci sono queste cose, purtroppo. Oh, tu ti integrerai molto bene nel nuovo pianeta, sai, Salvatore. Kendall è proprio quello, cioè si vuole arrivare a stare. stare bene, a salutare il Dio Sole, la famiglia delle pietre, insomma, che andare al nuovo punto d'arrivo. Io spero che tu farai parte del... A marzo ci sarà un'altra riunione come abbiamo fatto sotto il ponte di Via Libia. Ma perché l'avevo visto lì Tonino di Arci Reale, per questo. Thank you. Salvatore, che andare, non mancare comunque il prossimo appuntamento, Sì, vabbè, io ora sto imparando a scrivere, il mio nome, perché ora sto facendo qua la scuola. C'è la scuola qua. Ve la danno anche gratuita. Sì, per noi è gratuito. È una grande cosa, Ode non l'ha mai potuta fare qua, Guarda che è una grande cosa che avete solo voi lì giù, si sta bene, c'è il sole, potete iscrivere a scuola. Nelle carceri hanno bisogno di iscrivere, perché non bisogna mai lasciarli soli, Ma bisogna rispondere alle lettere, lo sai. Cioè, è più importante, perché se io ti devo dare una busta per dire, no, mi devo scrivere il tuo nome, giusto? Devo scrivere il tuo nome, e se no non mi ascolto. A che lettera sei arrivato, Salvatore? A D, forse, D, mi pare. Non lo so, a D. Ma noi ci fanno vedere le figure, è bello, ci fanno vedere le figure. Dimmi una parola, Salvatore, una parola con la D, la prima che ti viene in mente, guarda caso. Il dito, ci fanno vedere la fotografia col dito, c'è il disegno col dito, E noi ridiamo, gli amici miei ridiamo, perché pensiamo a quando ci vediamo in lacci delle scarpe, e mettiamo, capito? Certo. C'è mio cugino, che siccome lo fermano sempre gli sbirri, capito? E lui ci fa sotto la lingua, perché dice che insomma là è meglio quando. E lo fermano sempre gli spiriti, capito? E lui si fa sotto la lingua. Io sono a posto. Io pulito, non sporco niente, ti lascio tutto bello pulito, sistemato, io c'ho sempre il giro con la mia cintura. Importante, bravo, Salvatore. Sempre bello pulito. Io mi faccio di solito sotto al mignolo, perché i piedi sono un punto boom. Sì, sotto al mignolo dell'unghio del piede, va bene. Casomai ci dicono, mi fermo, ci dicono, sbattuto, così, capito? Insomma, è questo, noi ridiamo, quando stiamo bene, tutti assieme. E l'importante è che quando ce l'ha uno, siamo tutti fratelli, e ce la facciamo passare, ce la facciamo girare. Certo, Salvatore. Salvatore, mi dispiace, ma praticamente sto finendo tutte le monete, quella, hai capito? Purtroppo spero di poterti avere parte qua in studio appena lo rimettiamo a posto qua con noi. Ti salutano Antonio, Ode. Spero anche di risentirti prestissimo, magari anche per i cazzi nostri. In ogni caso penso che faremo molto molto più spesso questo tipo di intervento, quindi microfono aperto, chiamaci. Mi piace. Ti ringrazio veramente per aver chiamato e per aver reso vero, ancora più vero, questa radio free. Sei bravo tu, Patrizio, tu sei un amico, tu sei come un fratello nostro. Sei bravo, ti vuol dire che è bello per pietà, è una bella cosa, mi sembra giusto. Salvatore, un abbraccio e ascolta Bibi Radio, mi raccomando. Va bene, poi c'è pure mio cugino, qualche volta ti vuole parlare pure mio cugino. Non c'è problema. No, è sempre addormisciuto, venga, per farlo parlare. È un po' timido. Però perché ti voleva parlare, mi ha detto io volevo parlare con Patrizio perché è una bella persona, qualche volta magari te lo passo la prossima volta, io ti chiamo. Bene, aspettiamo l'intervento anche di tuo cugino. Va bene. Mi raccomando, Salvatore, porta in alto questa bandiera, eh. Va bene. Un abbraccio e ci risentiamo. Ciao Salvatore, un abbraccio, a presto. Sempre qui dalle frequenze free di Baby Radio. Ciao Salvatore, buona serata. Baby Radio, unica radio libera, Baby Radio, una radio che a Bologna e Sebastiano.